Tu devi perdonarmi, ma io ho fatto il liceo artistico dove non c'era il latino, do ut do, che cosa vuol dire? Perfetto, infatti questo è un latinismo creato proprio da Alessandro, è dare per dare, che in latino non esiste, è un do ut des, ma è un do ut do. Ok. E solo lui poteva pensare una cosa così geniale. Grande. E questo nome ha portato molta fortuna al nostro progetto. E ormai dal 2011 abbiamo fatto almeno 6 edizioni, è una biennale, okay, di arte, design, architettura, e ogni 2 anni creiamo un progetto. Io sono la presidente fondatrice e con me ci sono Nicola Martelli, che è qui presente in radio, Nicola Bedogni e Maurizio Marinelli, che io li chiamo un po' la spina elettrica agganciata al nostro progetto, perché invece loro lavorano proprio per la fondazione. Noi siamo volontari, assolutamente, come altre persone del nostro comitato, e la prima edizione nasce con un progetto d'arte. Progetto d'arte cosa vuol dire? Che semplicemente chiedemmo ai nostri amici artisti di donare un'opera, e con un po' di amicizie, conoscenze e relazioni personali riuscimmo a tirar fuori una mostra bellissima. E, dove? Allora, in via Barberie, non mi ricordo come si chiama il palazzo, ormai sono passati tanto tempo. Sì. Comunque non in un posto istituzionale, in un posto... No, è un palazzo privato, okay, molto bello, dove comunque riuscimmo ad avere gli spazi adatti. Fantastico. Ma gli artisti che parteciparono furono... Da altissimo livello. Altissimo livello, Mito Rai, Sandro Chia, wow, Ontani... Yoko Ono donò per la prima volta in Italia il suo Wish Tree. Ah, wow. Sì, e a una fondazione privata. E fu bellissimo, e fu esposto, fu riempito di wish. Certo. E tutto ciò, diciamo, fu molto importante anche per diffondere comunque già questo nome e questo progetto in Italia. Poi dov'è finito l'albero di Yoko Ono? L'albero di Yoko Ono è un ulivo, fu donato anche l'ulivo, e adesso è a Bentivoglio all'Hospice Ragnoli. Ah, dai, fantastico. Sì. E ci sono ancora, e viene ancora usato con i bigliettini. Ma adesso è lì, i bigliettini sono tutti conservati, chiaro, archiviati, ma per qualsiasi evento noi possiamo riusarlo quando partecipare, sì. Che è bellissimo. È bellissimo, fu una cosa bellissima. Io ne avevo peccato visto. Che non possiamo mostrare la foto, però potete andare. Basta scrivere Wish Tree Yoko Ono, Yoko e Ono, si trovano. Lo trovate. Ci sono varie versioni. Io l'avevo visto a Oxford in una retrospettiva su Yoko Ono, adesso forse 20 anni fa. Sì. E praticamente il visitatore è invitato a scrivere un desiderio ed appenderlo nell'albero. Sì. Per cui l'albero chiunque, è tutto pieno di questi, può passare e scrivere di questi il suo desideri. Wish. Fantastico, infatti. Comunque qui abbiamo Nicola Martelli che ci dice dove lo possiamo trovare se lo vogliamo vedere. Sì, alla fine. Io per Do2Do mi occupo di tutta la parte informatica, quindi noi abbiamo pubblicato i nostri contenuti sul sito istituzionale, che è appunto do2do.it, e poi abbiamo una pagina sulla piattaforma museale di Google che si chiama Google Arts and Culture, dove ci sono tutte le ultime esposizioni. Ho capito. Che è un'istituzione, insomma, la pagina di Google, perché si possono, dove le opere si possono vedere in altissima risoluzione, sbaglio. Ah, sì. Pensate di aver trovato qualcuno che non sa niente, invece no. Sono sono abbastanza ferrato. Sì. No, la piattaforma di Google l'abbiamo scelta perché è una parte che Google fa senza istituzioni, senza fine di lucro. Certo. È perfettamente allineata con l'iniziativa di Do2Do. È una piattaforma molto versatile ed è anche molto prestigiosa perché ci sono i nomi più importanti, certo, dei principali musei di tutto il mondo. È anche tecnicamente una piattaforma molto avanzata, per cui si può mettere qualsiasi tipo di contenuti. I contenuti di Do2Do sono sempre stati molto, molto eclettici, quindi abbiamo avuto anche video piuttosto che componenti multimediali, la realtà virtuale, la realtà aumentata, che in questo caso non è su Google, ma l'abbiamo da un'altra parte, e adesso ci sono tutta la parte della modellistica 3D che stiamo pian pianino utilizzando. Cosa fate in 3D? Ma in 3D in questo momento stiamo preparando, è un'anticipazione. Non voglio farti spoilerare niente, naturalmente. No, non è un segreto. Ok. È l'ultima iniziativa l'abbiamo fatta con Nino Migliori e la collezione delle foto che lui ha fatto per l'esposizione che è stata su al Museo Archeologico nel 2021, mi pare. E c'è questa raccolta di tutte le foto in una collezione di libri d'artista che a sua volta è raccolta in un mobile che adesso è in triennale in esposizione. È stato presentato il 13 di questo mese. Mm-hmm. La mostra si chiama Text e il curatore è Marco Sammicheli, okay, direttore della triennale. Grande. Sì, è stata una cosa molto bella. Per cui la mostra dura 6 mesi, invito tutti ad andarla a vedere perché merita, molto bella. Fantastico, poi domani su coxospaziale.blogspot.com mettiamo il link così chiunque può andare a vedere tutti i dettagli per andarla a visitare. Ma dimmi un po', Alessandra, tu come mai conosci tutti questi artisti? Come sei amica di Yoko Ono, per dire? Ma guarda, in realtà non sono amica di Yoko Ono, l'ho soltanto incontrata, perché è molto amica di un mio carissimo amico gallerista. Grande. Che si chiama Peter Fenfert, è una galleria a Francoforte, Die Gallerie, e mi ha aiutato sempre moltissimo in tutti i progetti di Daudò. Grande, sì. Perché un gallerista bravo, insomma. Sì. Ho chiesto aiuto, basta chiedere aiuto per un fine così, sì. È facile raccogliere. Grande. Sì. Andando in un livello leggermente diverso da quello in cui siamo in questo momento, voi dovete sapere che a Radio Città Fujiko c'è un tale che si chiama Marco Roma e che tutti i giorni manda un vocale cantato alla nostra radio, e noi in qualità di programma un po' bislacco tutti i lunedì ne facciamo ascoltare quello di oggi, e dunque vi invito ad ascoltare il vocale di oggi di Marco Roma, che ultimamente ha messo una foto e sappiamo che ha la barba. Sentiamo un po', Buongiorno! È incudine al martello? Se c'è la mala peggio, sarà la forza o il bene? Chissà se dottor Jamie sarà it o il genio ribelle, ma chi lo sa chi sarà. Da Marco Roma, buongiorno a tutti voi. Hai capito? Fantastico. Non ho ben capito, perché per un attimo era tristissimo, era stato lasciato dalla ragazza, poi per un altro attimo per un periodo cantava delle cose felicissime perché invece stava insieme a questa ragazza. Adesso sta cosa dell'incudine nel martello. Ma è sempre la stessa o l'ha cambiata? No, tutte le volte canta diverso. No, anzi, la fidanzata. Ah, non lo so, perché io lo capisco solo dai vocali, per cui, cioè, se volete possiamo ascoltare quello di venerdì scorso, ascoltiamo anche quello di venerdì scorso, così magari capiamo un po' di più sull'incudine nel martello. Dov'è? Eccolo qua. Buongiorno! Buongiorno. Ho percorso molti chilometri senza una meta e una ragione, ma stavolta ho l'obiettivo giusto per raggiungerti, la scelta è giusta. Da Marco Roma, buongiorno! Hai capito. Chet Baker ci stava, dai, dopo Marco Roma. E dunque raccontatemi qualcos'altro su questo Daudò. Siamo partiti dalla prima edizione Arte. Sì. La seconda edizione fu Design e Arte. Design e Arte. E, molto bella, la presentammo al Mambo. Ah, grande. Sì. Mm. Fu una molto bella, sempre artisti importanti e meno ci hanno accompagnato in questa seconda avventura, e diciamo che il design lì cominciò a prendere parte del progetto Daudò. Infatti la terza edizione fu diciamo creata da me insieme a questo mio amico carissimo che è Alessandro Mendini, chiaramente famosissimo, che è mancato da qualche anno, certo, e grande maestro. E così facemmo i valori dell'abitare. Esiste un catalogo bellissimo, praticamente erano 13 stanze, 13, sì, perché sì, ormai vado un po' indietro, 13 stanze fatte da 13 architetti tipo Libeskind, Renzo Piano, cioè architetti da niente, insomma. Claudio Silvestrin, Massimo Iosaghini, okay, Nanda Vigo. Wow. Te ne ricordi qualcun altro? Cucinella. Mario Cucinella, grande amico, saluto Mario, ciao ciao. Non so se starà ascoltando Radio Città Fujiko in questo momento. Ah, ma domani gli mando il link, se lo sentirà, okay, sicuro. Grande. Naio Leari, esatto. Poi, sì, ormai sono talmente tanti nomi che sì, ci sfuggono. Ne abbiamo fatte tante. Ne abbiamo fatte tante. E devo dire che questa edizione qua è stata selezionata per il Compasso d'Oro. Ah, wow. Sì. E dove era la mostra? Allora, la mostra fu presentata al Mambo, mm-hmm, ma in realtà era una mostra virtuale, per cui le stanze erano virtuali? Sì, okay, bastava mettersi gli Oculus, qui Nicola ci può spiegare meglio. Certo. Era tutto in realtà virtuale. Tutto in realtà virtuale, grande. 10 stanze, erano 13 stanze. Okay. Ah, poi c'era anche Stefano Giovannoni. Mm-hmm. E 13 stanze dove loro hanno praticamente dato un valore: amore, passione, libertà, ognuno aveva la sua. Bello. E se volete andarla a vedere, merita, perché comunque è stato uno dei progetti che ho amato di più. Poi c'è stata la quarta edizione, intitolata La morale dei singoli. È stata una mostra bellissima fatta a Pompei, mm-hmm, proprio nel... per cui il progetto non è particolarmente bolognese, cioè si espande in tutto il territorio. Bisogna spostarsi, certo. Sì, bisogna un po' spostarsi. Mm-hmm. E la mostra è durata 6 mesi, grandi artisti, tra cui anche artisti bolognesi tipo Simone Pellegrini. Mm-hmm. Che salutiamo, mm-hmm, cioè Simone, sì. Mm-hmm. Non ho la lista, ma ve li direi tu. Certo. Ah, Quaghi Corsello. Chiaro. Ho nominato i bolognesi. I bolognesi. E fu una mostra molto interessante, a cura di Andrea Viliani, per cui grande curatore. Certo. E il presidente Massimo Osanna. Ah. Sì. Comunque, appunto. E dunque era Mio dentro, Migliori, era dentro a, era dentro al parco di Pompei? Dentro al parco di Pompei. Wow. No, quando hai detto Osanna, allora ho pensato che fosse dentro al parco di Pompei. Essere, wow. Comunque abbiamo portato il nostro Daudò anche a Caserta, la regia di Caserta, mm-hmm, quando c'era il nostro amico Felicori, che certo, saluto anche lui. E lì a Roma, Mambo, Maxi, mm-hmm, scusa, ho detto Mambo che è di Bologna, scusate Maxi. Certo. E, sì, abbiamo fatto delle cose importanti. Tutte le presentazioni sono state fatte al Guggenheim di Venezia. Wow. E tutti gli aiuti, tutto quanto, sono stati tutti volontari, sempre tutti sponsorizzati e tutte le entrate, tutte devolute all'Hospice Ragnoli. Ah. È abbastanza impressionante. Dico sempre che ho sempre bisogno di amici che ci sostengono. Chiunque si voglia avvicinare per qualche aiuto, noi ci siamo. Mm-hmm. Beh, considera Coxo Spaziale vicino. Sì, no, ma nel momento in cui ho detto sì a questa intervista, sapevo che sareste stati con noi per sempre. Grande. Vi potrei raccontare tantissime cose, però mi devi fare delle domande. Ti devo fare delle domande? Sì. Dunque, ho troppo da dire. Prima di tutto ti faccio ascoltare un pezzo che si intitola Not to Dissect, ovvero il nuovo singolo della band Clidas, che mi è arrivato ieri, perché devi sapere che quando... da quando faccio radio le persone mi mandano musica, perché, perché nei programmi radio c'è la musica, e dunque io quando me la mandano li faccio sentire. Questo si intitola Not to Dissect, la band si intitola Clidas ed è il secondo pezzo che anticipa questo album che si chiamerà No Harmony, che uscirà il prossimo 2 giugno, per cui ce li andiamo ad ascoltare almeno un pezzettino, insomma, Not to Dissect. È stato registrato live, non sono male questi Clidas, fanno questa prog un po' pestante, no? Non so, che tipo di musica ti piace a te, Alessandro? Ma guarda, a me piace tutta la musica, ma non questa. Dipende il momento in cui la sento. No, mi piace anche questa. No, abbastanza interessante, oggi... Oggi ho preso musica un po' a casaccio perché è tutto il giorno che corro, per cui così, però questo mi sembra un bel pezzo. Avevo risposto al telefono ma non funzionava, perché non lo so, gli amici che ti telefonano durante la trasmissione è un po' strano. Comunque non è male sto pezzo. Mi dicevate offline, mi raccontavate di Dario Fo, raccontami tutto su Dario Fo, voglio sapere come vi ha... Allora, Dario Fo, anche questo è stato un bellissimo incontro, sempre presentato dal mio amico Peter Fenfert, che ci ha seguito proprio nel progetto della casa, la casa ideale, quella disegnata da Alessandro Mendini, per cui feci incontrare Dario ad Alessandro, che era un po' il loro sogno. Ah, grande! Sì, fu una cosa bellissima. Erano, come si dice, fan di l'uno dell'altro. Sì, grande. Incredibile. L'esperienza con Dario è stata una delle più belle, diciamo, nel mondo che ho vissuto e sto vivendo in questo momento. Lui era già molto stanco, malato, però sempre vivo, sempre presente, sempre entusiasta di tutto. E anche lui donò a Daudò questo bellissimo disegno di questa donna sdraiata su un letto, e che potete sempre vedere nel sito Daudò. Nel sito Daudò. E mise anche del suo, diciamo, nel progetto, nell'esprimere tutto quello che poteva essere una casa ideale. Un'altra che voglio ricordare è Nanda Vigo, che anche lei è mancata, e, che dedicò la sua opera ad Alessandro Mendini, loro grandi amici. E dopo queste, diciamo, dopo tutti questi nomi, in realtà dietro c'erano tantissimi altri artisti che hanno collaborato e siamo riusciti così a fare uno dei progetti più belli del nostro percorso. Che sarebbe? Allora, sarebbe questo di cui sto parlando. Ok, sempre, certo. Sempre la casa di Daudò. E diciamo che Daudò è un processo fatto di incontri che hanno portato ad altri appuntamenti, di persone illuminate e disponibili che hanno coinvolte altre ed ognuno ha aggiunto un po' del suo, un pezzetto di sé, come dice sempre Alessandro Bergonzoni, un piccolo Do. No, ecco. Infatti sto guardando un po' di opere e ci sono dei pezzi spettacolari. Stavo guardando, ho notato l'opera di Tadiello, di Alberto Tadiello, che ho visto al Mambo l'altro giorno. Sì, sì, perché è molto importante. Daudò sta seminando le sue opere nei più importanti musei. La prima è stata proprio quella di Alberto Tadiello, che è stata poi scelta da Lorenzo Balbi, sì, altro amico di Daudò, devo dire. Certo, che anche lui ho visto prima a sentire il Ruan Grupa. Sì. Sì, no, c'era metà del mondo dell'arte, perché naturalmente nel momento in cui in Accademia appaiono i curatori di Documenta, sì, c'eravamo tutti, diciamo. Allora, diciamo che una grande azienda che è a Bologna, si può dire, Philip Morris, ha fatto una donazione all'Hospice Ragnoli, praticamente donando l'opera di Tadiello al Mambo. Al Mambo, fantastico. Sì. Un'altra opera molto bella che è a Bologna. È alla Steam School di Confindustria, di Gianni Pettena. Ah, dai, bellissima, bellissima. Ho visto che adesso Gianni Pettena in MiArt è stato anche menzionato come vincitore di un premio. Grande Gianni Pettena, grande, grande amico anche. Human Wall è una roba gigantesca, è una cosa due metri e mezzo per 4 metri, sì, legno, rete metallica, creta, e sono tutti segni di mani, o sbaglio? Sì, tutte mani. Fantastico. Bellissimo. Del 2019. Presentata a Pompei. Ah, dai, cavoli, ci stava molto bene a Pompei questa, eh? Eh sì, no, bellissima, veramente bella. No, lui è un grande. Poi un'altra persona che voglio ricordare assolutamente è Giovanni Gastel, grande amico. Ah no, infatti stavo proprio guardando la sua foto, sì, in cui, se non vado errato, mi sembra di vedere anche te. Sì, io sono l'angelo. Sei l'angelo, sì, infatti. Io sono l'angelo. La scuola di Atene. Io sono l'angelo. Veramente io l'avevo chiamata all'ultima cena e Giovanni disse no, però la chiamiamo anche la scuola di Atene. Ho detto va bene. Che in effetti assomiglia un po' a un'ultima cena, anche se sembra un po' piena di persone. Sì, sì, perché sai, io avevo detto chiunque dei miei artisti può venire. Grande. E facemmo 3 mesi di sedute nello studio di Giovanni. Okay. Arrivò chi poteva arrivare, chiaramente. Poi a un certo punto Giovanni disse: no, Alessandra, basta, non ci stanno più nella foto. Grande. E comunque troviamo Mimmo Iodice, Nanda Vigo, Alessandro Mendini, Stefano Giovannoni, adesso la sto visualizzando. Carlo Valsecchi, Nicola Bedoni. Il grande Carlo Valsecchi, ciao Carlo. Stefano Casciani, cioè qua c'è una lista gigantesca, sì, insomma. Stefano Casciani, grande amico, Nino curatore. Migliori anche, Valerio Monti, Marcello Iori, Massimo Giacon, insomma. Sì. Nanda Vigo stessa, per cui questo è veramente... No, questa è veramente un'opera, importantissima. Un'opera d'Oddo. Allora, questa è una foto di Otto, è una foto di Otto, una delle quali è stata comprata da un grande collezionista tedesco, mio amico, ed è per il museo Martha di Erfurt. Wow. Sì. Grande. Ho capito, sono le 20:31 e siamo in ritardo per la pubblicità delle 20:30, per cui mi tocca di interrompervi di nuovo e fare così. Dov'è? Corso spaziale. Resto immobile. Ti vedrò per l'ultima volta, dove non può esistere ogni singola risposta. Resta qui per me. Questa è, invece, questa è Camilla Pandozzi e la sua, il suo pezzo si chiama Luci Sculture. È appena uscito anche questo, ma ce lo ascoltiamo poi in un'altra puntata, perché dobbiamo continuare a parlare di Do Udo e abbiamo un sacco di cose da raccontarci. E mi hai fatto un sacco di nomi mentre eravamo offline, Sì, tra cui appunto una serie di gallerie che ti stanno, che ti aiutano in questo percorso, perché come allora, cioè, tu conosci un sacco di gente, ma non è che si può andare avanti solo a colpi di amicizie, o sì? Beh, perché bella allora, questa tua modalità, mantenerla, specialmente in quello che noi stiamo facendo, è importantissima dare un valore all'amicizia. E tra gli amici devo riconoscere anche alcune gallerie italiane. Lì a Roma, Galleria Continua, okay. P420 di Bologna. Tutte gallerie di bassa statura, naturalmente, sì. Cioè, le gallerie migliori d'Italia, insomma. Cioè, sicuramente che hanno gli artisti più importanti d'Italia. Poi, ma anche Zoo Gallery, Zoo Gallery di Roma. Ah, dai. Sì, lei, Francesca, è veramente in gamba e molto generosa. In tutto ciò mi viene, per associazione, mi viene in mente Flavio Favelli. Ah, ok. Il nostro amico Flavio. Cosa ci racconta? Allora, Flavio mi ha seguita dal primo momento. Diciamo con una generosità importante. Abbiamo ancora un'opera di Flavio, bellissima, che è stata esposta anche a Pompei e anche in Arte Fiera. Non in questa edizione, e neanche nella precedente, quella pre-Covid. Ok. Sì, bellissima. E adesso stiamo trovando una sistemazione, spero presto, a Bologna. Sarà una donazione. Ottimo. Sì. Molto bene. Io ti interrompo di nuovo, ahimè, perché come tutti i lunedì dobbiamo raccontare cosa succede questa settimana. E dunque, dov'è? L'angolo della menzione. Lo chiamiamo l'angolo della menzione, ovvero fermati lì tu. Ovvero, cosa succede questa settimana? Domani alle ore 19 abbiamo Abitare l'emergenza negli spazi iconici del padiglione dell'Esprit Nouveau. Silvia Camporese, Luca Capuano, Allegra Martin e Alessandro Imbriaco, attraverso le loro opere, generano una mappatura in grado di indagare, secondo Abecedari Plurimi, quanto emerge dalla condizione dell'abitare emergenziale. Riflessione, scrittura fotografica in un modus vivendi imprevisto, ma forse non imprevedibile. Il progetto espositivo a cura dell'Ordine degli Architetti di Bologna, in collaborazione con Azzurra Immediato, che salutiamo. La mostra sarà poi visitabile dal 18 al 30 aprile al padiglione appunto dell'Esprit Nouveau, che è in piazza della Costituzione 11 a Bologna. Giovedì 20 aprile alle 18 il Mambo, Museo d'Arte Moderna di Bologna, è lieto di proporre una serie di incontri che, a partire dalla presentazione di alcune importanti pubblicazioni indipendenti, intendono intervenire nel dibattito sul ruolo dello spazio, sia pubblico che privato, e sulla disciplina del writing. Il ciclo di appuntamenti, dal titolo More Public Less Program, a cura di Fabiola Naldi, inizierà il 20 aprile e andrà avanti per un totale di 6 momenti a cadenza settimanale, ogni giovedì fino al 25 maggio, nella sala conferenze del Mambo, con ingresso libero. Il primo incontro ha come ospiti Pierpaolo Ascari e Pietro Rivasi, autori del libro Espressioni Urbane, Muri Sconciati, Writing e Street Art. Questo è al Mambo, in via Dominzoni 14 a Bologna. Sempre giovedì alle 18 invece inaugura un nuovo museo a Bologna. Apre il Museo 800 Bologna, che avrà sede in piazza San Michele 4C, davanti a Corte Isolani, su Strada Maggiore. Una collezione permanente di 85 opere di maestri bolognesi illustra le principali correnti e tendenze espressive del secolo lungo. Il nuovo museo sarà un centro di ricerca e di formazione e organizzerà mostre temporanee ed eventi. Il percorso espositivo del Museo 800 Bologna inizia intorno alla metà del secolo, scandagliando gli sviluppi artistici del territorio attraverso opere di artisti bolognesi come Giovanni Paolo Bedini, Luigi Busi, Fabio Fabbi, Mario De Maria, Alfredo Protti e tanti altri. Questo appunto è al Museo dell'Ottocento di Bologna in via San Michele 4C. Ci dovrò andare perché devo dire che io sull'Ottocento sono veramente poco ferrato. Sempre giovedì, ahimè, dalle 18, cioè ahimè nel senso che non possiamo avere il dono dell'ubiquità, dalle 18 alle 21 lo studio G7 presenta la collettiva Space as a Duty of Care, con opere di Simon Callery, Anneke Eussen, Jacopo Mazzonelli, Goran Petrekol e Silvia Stefani. Il progetto, a cura di Daniele Capra, raccoglie lavori di natura tridimensionale dei 5 artisti, la cui pratica può essere letta come un reiterato atto di responsabilità verso lo spazio e di attenzione a cosa in esso può accadere. Questa è la Galleria Studio G7 in via Valdaposa 4A. Poi abbiamo un evento che si tiene sia venerdì 21 alle ore 18 che sabato 22, sempre dalle 18 alle 21. Abbiamo Orizzonte, Sommo Orizzonte. Giovanna Caimmi, Francesca Dondoglio, presentando questa, è una bipersonale, nella galleria Studio La Linea Verticale. Presentando questa mostra, la galleria vuole farsi portavoce dell'ambivalenza tra opposti, biunità dell'essere, avvalendosi del lavoro di due artiste, appunto Giovanna Caimmi e Francesca Dondoglio, che ragionano sulla morfologia di un orizzonte visivo che è totalmente spirituale. Questo è lo Studio La Linea Verticale in via dell'Oro 4B, sempre a Bologna. E basta, così abbiamo fatto anche le nostre menzioni e sta cosa del Museo dell'Ottocento mi interessa, per cui vabbè, spero di riuscire ad andare all'inaugurazione e a invitare i curatori a una puntata di Coxo Spaziale, anche se noi tendenzialmente parliamo di contemporaneo, però insomma l'Ottocento poi non è così lontano, insomma. Cosa dici, Alessandra? Sì, in effetti era un secolo interessante. A me piace tantissimo la pittura dell'Ottocento, tipo fine Ottocento proprio, tipo Boldini o come si chiama, Giacomo Grosso, che sì, è lontanissimo da quello che è il mio essere artista concettuale, però la pittura rimane importante. Grandi ispiratori. Infatti. No, anche perché poi i temi di quella pittura sono gli stessi temi di adesso, no? Appunto, la vita, la morte, il tradimento. Guarda, mi sono riletta proprio oggi pomeriggio alcune pagine di un catalogo che mi regalò Andrea Viliani di Lucio Amelio. Certo. E che diceva esattamente le cose che stai dicendo tu adesso. Incredibile. Ah no, sì. Gli artisti in realtà hanno sempre trattato gli stessi temi, poi dal Rinascimento in poi naturalmente mascherati da temi religiosi, però sappiamo benissimo appunto come mi viene da pensare per esempio al momento in cui nel Rinascimento si ritrovano alcuni scritti di Aristotele, se non sbaglio, no, di Platone, degli scritti che si erano persi di Platone e dunque vengono tradotti in latino e dunque diventano linguaggio comune, e gli artisti tipo Donatello rappresentano all'interno delle, mettono dei piccoli, delle piccole chicche simboliche all'interno dei loro lavori. C'è tipo questo busto di giovinetto con questo medaglione dove ci sono c'è questa auriga che, con due cavalli, una che un cavallo che punta verso l'alto e uno che punta verso dritto, e sono l'ambivalenza dell'essere umano, la parte della passione che punta verso l'alto e quella della razionalità che punta dritto. No. Beh, comunque tu dovrai partecipare a una nostra edizione di Doudou. Se me lo dici in diretta, dopo io lo registro. Sei catturato. E dunque sei, sì. ne sei obbligata. Per cui No, ma sarà un piacere. Sarà un piacere. Sarà un piacere anche e per poi me. E poi grazie dell'invito. No, figurati. Mi ha incuriosito anche perché Norma Waldman, che salutiamo, ci ha messo in contatto mostrandomi appunto il vostro intervento ad Arte Fiera. Sì, appunto. Avevate un intero stand di Arte Fiera. Dell'ultima Arte Fiera. Parliamo dell'ultima Arte Fiera. Allora direi che è andata molto bene. Ho sentito un po' di commenti, è andata bene per tutti. È stato Simone molto bravo. Sì, certo. Tutti quanti. Poi noi viviamo a Bologna, Bologna è una grandissima città, io la amo follemente, nascono cose meravigliose. Io la amo soprattutto la settimana di Art Week. Esatto. E poi amo anche il fatto che da 3 anni a questa parte, il giorno dopo, il lunedì di Arte Fiera, sia Simone che Lorenzo vengono ospiti a Coxo Spaziale a raccontare com'è andata, per cui quest'anno erano particolarmente contenti, insomma, cioè quest'anno è andata veramente, anche come... È andata benissimo. E poi anche c'era anche un tempo spettacolare, fra l'altro. Sì, era caldo. È stato una forse bella era settimana. Più caldo allora di adesso. Di oggi, infatti. Sì. No, assolutamente. E dunque, no. Che avete fatto come Doudou ad Arte allora, Fiera? Doudou ha fatto una cosa bellissima, che è stata molto apprezzata. È stato uno stand molto visitato. Mm-hmm. E come artista ospitavamo Joan Krauss. Joan, che salutiamo e che invitiamo a venire a Coxo Spaziale, perché lui ha un sacco di cose da raccontare. Lui ha delle cose bellissime da raccontare. Soltanto se comincia a parlare di Eta Beta, quello che ha fatto lui e Giovanna, sua moglie, sono veramente dei grandi personaggi. E con Joan abbiamo ideato un tavolo mm-hmm. di vetro, perché lui lavora con il vetro, 6 pezzi. Con l'allestimento dello stand e il supporto dell'opera di Michele De Lucchi. Mm-hmm. E ricordo anche Michele, che è di fianco a me da sempre. Ogni volta lo chiamo e lui mi dice: Alessandra, adesso che mi chiedi? Mi dice poi sempre di sì. Certo. Lo vedrò anche a Milano questa settimana. E in più c'erano 2 panche disegnate da Michele, realizzate da un'amica che ha una cava di pietra leccese che si chiama Pimar. Mm-hmm. Molto belle le 2 panche Bernina, che fra l'altro quando sono venuto c'era un bambino che era sdraiato su una delle due che si riposava, pur essendo di cemento. No, è pietra leccese, scusa. Morbida non certo. era. No, morbida, morbida non era. Ma lui è stato lì 1 ora, 2 ore lì con il suo telefonino e si è rilassato moltissimo. E invece volevo dire che l'opera di Juan è visibile nella prima pagina del sito, con questo c'è un dettaglio di questa opera che si chiama Fragile. Come si pronuncia in spagnolo? È così, Fragile. Fragile. Sì. No, fragilità. Ed è tutta di vetro, giusto? Tutta di polvere di vetro. Incredibile. Sì. E, è andata molto bene per noi, abbiamo ceduto tutte le opere, okay. Per cui siamo stati molto contenti. E la cosa che più mi ha fatto piacere e mi ha impressionato la quantità di gente che passava dal nostro stand incantata. Mm. Sì, grandi collezionisti hanno donato per avere un pezzo di opera di Joan. E insomma, grande soddisfazione, è andata molto bene. Molto bene. Io ero anche malatissima in quel momento, però ce l'ho fatta. Grande. Sì. No, devo dire che è stata una bella fiera e una bella settimana questa di Art Week, assolutamente. E dunque ascoltiamo un altro pezzo, dai. Che così ti chiedo di nascosto di che cos'altro dobbiamo parlare. Sono pronta. Sei pronta. Ascoltiamo, dove è andato? Ah, eccolo. No, oggi sono un po'. Devo dire che sì. Ho corso tutto il giorno e in effetti comincio a sentire i colpi. Eccolo qua. Voilà. Siamo ritornati mentre stavamo chiacchierando offline, stavo raccontando ai miei ospiti, per esempio, dell'ex centrale del latte, che fanno un sacco di attività anche per la comunità, cioè per quello che è la comunità locale, per cui appunto concerti, eventi, ma coinvolgimento di quello che è i ragazzini che ci sono lì intorno, insomma. Per cui, beh, cioè, molto bello. Infatti, no, perché adesso lo racconto a chi ci sta ascoltando, che appunto stavo raccontando un po' come io vedo Coxo Spaziale, ovvero la possibilità di far incontrare persone diverse e di raccontare realtà culturali, soprattutto artistiche, diverse in una città come Bologna, dove è un po' a compartimenti stagni, molto spesso non ci si conosce, magari ci si vede spesso, ma non ci si conosce e non ci si confronta soprattutto. Secondo me ti sarebbe piaciuto molto anche appunto l'incontro con Ruan Grupa, che sono questo super collettivo. Loro sono in 85 in Indonesia, sono quasi tutti artisti e appunto hanno questa modalità di lavoro dove tutti hanno delle funzioni diverse all'interno del gruppo, ma tutto quello che loro riescono ad avere come supporto lo mettono insieme per poi ricondividerlo, che è quello che hanno portato a Documenta come modalità espositiva, per cui hanno preso tutti i fondi che avevano a disposizione per Documenta, hanno invitato un ulteriore numero di collettivi e hanno ricondiviso tutto, per cui ogni persona aveva a disposizione praticamente lo stesso tipo, la stessa tipologia, e con l'intenzione di lavorare insieme, per cui sono andati molto tempo prima e hanno costruito una documenta che io, quando l'ho vista, in effetti era abbastanza strana rispetto alle mostre, no, dove tu hai che ne so, le biennali, dove hai questa serie di opere d'arte una dopo l'altra, mentre invece lì avevi gente che stava creando in quel momento, c'erano dei talk, c'erano degli incontri, c'era tantissima interazione, cosa che sarebbe bella che succedesse anche in questa piccola città. Sì. Succederà. Sì, riusciamo a farla succedere. Secondo me succederà. Grande. Ok. Visto che siamo in chiusura, vorrei chiedere a Nicola di informarvi un po' tutti dove trovarci, come contattarci, andare sui siti, se sì, importantissimo. È presente un po' in giro, c'è ovviamente il sito principale che è www.douto.it, e poi abbiamo sia una pagina Facebook, chi non ce l'ha, e una pagina Instagram, abbiamo un'app, e poi cercandoci sul sito Google Arts and Culture, sempre come Douto. Grande. Lì troverete di tutto di più. Perfetto, molto bene. Io vi ringrazio tantissimo. Grazie a te, Nicola e Alessandra di Douto. Naturalmente invito tutti ad andare a vedere tutte le cose che fate nel sito, appunto, douto.it. Io ero Stefano W. Pasquini, questo era Coxo Spaziale, e oggi finiamo anche due minuti prima, così i fantastici amici di Panta 80 stavolta possono organizzarsi, perché di solito sono terribile e finisco sempre in ritardo. E dunque, come al solito, finiamo con le fantastiche parole del nostro direttore di radio, che ci saluta in questo modo. Con questo basso livello di radiofonia ascoltiamo la sigla.